questo martedì 20 marzo. I titoli sono per lo più sulla riforma del mercato del lavoro. Oggi la giornata forse conclusiva, certamente uno snodo importante per capire se questa riforma si farà, con chi si farà e chi la firmerà. Pensioni, si riapre la partita per 350.000, questo è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore, affiancato a un napolitano sul lavoro, grave un no all'intesa, trattativa in salita. Corriere della Sera invece apre sulla strage in Francia, il killer che angoscia la Francia, strage alla scuola ebraica, alla pista del neonazismo. Per Repubblica, Napolitano, lavoro, serve l'accordo. La Stampa, lavoro, pressing di Napolitano, grave se non c'è l'intesa. Grave se non c'è accordo è anche il titolo d'apertura del Messaggero, mentre l'Unità sceglie la strage di Tolosa, i nostri figli, questo è il titolo, e così il Manifesto, il ghetto d'Europa, l'uccisione di tre bambine e un insegnante franco-israeliano davanti a una scuola ebraica di Tolosa scuote la campagna elettorale francese, indigna il mondo. Mentre c'è chi sceglie proprio i redditi dei politici, euro per euro, tutti i soldi dei nostri politici, questo è il giornale, mentre il Fatto Quotidiano, l'USI si è fregato 23 milioni e dichiara 305 mila euro. Per Libero invece ci svaligiano la casa, uno studio sull'IMU, la nuova ICI. E allora, visto che noi partiremo e parleremo alle 8.30 proprio di questo, dei redditi dei parlamentari, oggi potete scoprirli tutti. Beh, il giornale li pubblica proprio dalla A alla Z, tutti i parlamentari, li trovate a pagina 4 e 5 se avete voglia di cercare tutto il vostro parlamentare di fiducia o di sfiducia della Camera o del Senato. Vabbè, la classifica cosa vede? Ogni anno è così. Il più ricco è Silvio Berlusconi, resta al top, titolo del Sole 24 Ore, pagina 25. 8 milioni in più nel 2010, ha dichiarato 48.180.792 euro. Al secondo posto, un parlamentare eletto all'estero, Amato Berardi, Popolo della Libertà, con 3.092.000 euro. Terzo, Antonio Angelucci, sempre del Popolo della Libertà. Poi ci sono gli avvocati. Gli avvocati, perché hanno il doppio lavoro, mantengono gli studi. Al quarto posto Donato Bruno del PDL, poi Giulia Bongiorno del PDL, se ci aggiriamo a 1.700.000 euro. Giuseppe Consolo, 1.630.000 euro. Eccolo qui, al settimo posto, per quel che riguarda il Senato, perché è senatore a vita, come sapete, Mario Monti dichiara al Premier 1.513.030 euro. Poi Maurizio Paniz, nostro ospite appunto alle 8.30, con 1.482.000 euro. Vabbè, poi il Sole fa sapere anche la classifica dei membri del governo invece, no? Che membri del governo che avevano resi noti i loro stipendi, le loro dichiarazioni dei redditi qualche tempo fa. Il ministro della giustizia è nettamente in testa con 7 milioni e 5 mila euro, Paola Severino, davanti a Corrado Passera, 3 milioni 529 mila euro, e Piero Gnudi 1 milione 694 mila euro. Poi interessante anche sapere come i loro soldi vengono investiti. Beh, il Sole 24 Ore fa sapere, con Nicola Barone e Marta Paris, che il mattone batte i titoli di Stato. Che siano quattro di più è per assicurarsi le solide mura che i parlamentari aprono le proprie tasche con maggior piglio. È sempre la casa per tutti gli italiani e dunque anche per i parlamentari è il bene primario. Gran parte degli acquisti si colloca all'interno dei confini nazionali, ma c'è anche chi come Luca Barbareschi, ora nel gruppo misto, ha comprato per oltre 1.100.000 euro a New York un appartamento. O Guglielmo Picchi del Popolo della Libertà, che punta a Londra. Vabbè, ad Antigua. Berlusconi, che ha comprato anche la casa di Lampedusa, è ufficiale. È entrata nella dichiarazione dei redditi, quindi ha mantenuto la promessa, ha comprato casa a Lampedusa, Berlusconi. Mentre Marco Milanese ha venduto il piedaterra a Cannes. E tutte località interessanti. Pochi hanno investito nei titoli di Stato. Pochissimi. 3. Mario Pepe, 100.000 euro in BTP. Roberto Rau, 50.000 euro in BTP. E Ignazio Marino, 40.000 euro in BOT. Tanto che Libero è molto ironico su questo. Il concetto è: lo dicono a noi, ma nessuno investe in bot e nei titoli di Stato tra i politici. Anche Repubblica dedica una pagina agli investimenti. Porsche, vigne, niente titoli di Stato. L'onorevole punta tutto sul mattone. Interessante questo, eh? Titoli di Stato a tutti dicono di comprarli, ma non c'è un politico che investe nei titoli di Stato, o sono pochissimi. E invece le Porsche vanno per la maggiore, per la maggiore no, però ci sono deputati che subiscono il fascino della Porsche. Per esempio Giorgio Holtzman ne ha comprata una, mentre invece Giuseppe Vegas, che oggi è passato a presidente della Consob, ne ha venduta una modello Boxster, acquistando una BMW. Risulta invece rottamata la Porsche di Giorgio Conte di Future Libertà. Gettonatissime soprattutto le auto tedesche tra i deputati: Audi, BMW e Mercedes di vari modelli. Ironico è in prima pagina di Libero, ironico e non solo ironico, il Fatto Quotidiano nel titolo di prima pagina: Lusi si è fregato 23 milioni, l'ex tesoriere della Margherita dichiara 305.000 euro. Tra l'altro il Fatto Quotidiano è molto critico, definisce i redditi bidone quelli diffusi da deputati e senatori, generici e incompleti, tanto che l'ex tesoriere della Margherita può sembrare appunto un bravo contribuente. Insomma, per il Fatto Quotidiano si tratta solo di fumo negli occhi per gli italiani. C'è anche la sorpresa di un sottosegretario, Zoppini, 1.486.000 euro dichiarati e sei case da Roma a Cortina. Beato lui. E invece ovviamente c'è anche il più povero. A pagina 15 del Corriere della Sera viene anche sentito, si tratta di un leghista, Eraldo Isidori, 71 anni, dichiara 26.000 euro e dice: lo so, un miracolo, la mia elezione alla Camera è un'anomalia, non sono avvocato, non sono professore, molta gente dice che uno come me non dovrebbe stare in quel posto a Roma, ma io sono una persona per bene, uno che cerca di aiutare gli altri, non è cambiato da quando mi è capitata questa avventura. Elettrauto in pensione della provincia di Macerata, si è iscritto alla Lega nel 1987 a Macerata e poi per un caso è stato ripescato a ottobre del 2010 dopo le dimissioni di un leghista. La sua dichiarazione: 26.027 euro, vivo di pensione, prendo dopo 45 anni di contributi 750 euro al mese. Certo, ora con indennità di deputato le cose vanno in modo diverso, ma racconta Isidori: io sono uno che non si monta la testa, anche perché la vita mi ha riservato un dolore immenso. Infatti forse molti lo ricordano, Eraldo Isidori, licenza media, presa per corrispondenza, una vita passata tra batterie, morsetti e spinte erogeni. Ha anche avuto una disgrazia, volto noto infatti di chi l'ha visto, perché il 23 aprile del 79 il figlio Sergio di 5 anni e mezzo fu rapito in paese e da quel giorno del bambino non si è più saputo nulla. E dice oggi il deputato: sono stato colpito da questa sfortuna che ha sconvolto la mia famiglia e da quando è capitata questa avventura politica l'ho presa come un motivo in più per andare avanti. Ci fermiamo 5 minuti. 24 mattino. La domanda oggi che si pongono tutti i giornali, si pongono tutti i cittadini italiani è: ci sarà allora questo accordo sulla riforma del mercato del lavoro su cui parti sociali e governo stanno trattando da tempo? Beh, anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano ieri ha fatto sentire la sua voce e ha detto che è grave se non ci sarà questo accordo. Le trattative sono andate avanti fino a ieri sera, a serata inoltrata. Pare che, ormai accertato, tra un'ora circa, alle 8.30, ci sarà un vertice, un pre-vertice informale tra il ministro Elsa Fornero e i sindacati, le parti sociali, e poi dalle 15.30 oggi si aprirà ufficialmente quella che dovrebbe e potrebbe essere la giornata conclusiva, ma non è detto, per trovare un accordo sulla riforma del mercato del lavoro. E la trattativa è ancora in salita, questo almeno è la linea che, questa è la linea che il Sole 24 Ore fa sapere in prima pagina. Tra l'altro Davide Colombo a pagina 3 racconta quelli che sono tutti gli elementi sul tavolo: lavoro, ultima mediazione sull'articolo 18 oggi in incontro a Palazzo Chigi, il confronto però potrebbe durare tutta la settimana. Quello che è certo è che poi il premier Monti è atteso da una missione in Asia e quindi entro la settimana bisognerà arrivare a un qualche tipo di accordo, o se non si arriverà a un accordo il governo procederà autonomamente portando la riforma in Parlamento. Certo, scrive Davide Colombo, sono ore decisive per un confronto ormai aperto da 2 mesi, dovrebbe chiudersi se non oggi comunque entro la settimana. L'obiettivo prioritario resta l'accordo con tutte le parti sociali che darebbe ovviamente il massimo valore aggiunto alla riforma, altrimenti il governo presenterà la riforma stessa e procederà da solo. Tra l'altro il Sole mette già tutta una serie di elementi che fanno parte della riforma e con cui gli italiani dovranno fare i conti, anche nuove terminologie. A pagina 5 la prima è quella dell'ASPI, l'acronimo che sta per Assicurazione Sociale per l'Impiego, col quale verrà indicato lo strumento che sostituirà le indennità di mobilità e di disoccupazione. Comunque tutti i dati e tutto quello che potrebbe cambiare e come potrebbe cambiare lo trovate a pagina 5, dall'ASPI agli ammortizzatori, a quello che succederà in tema di flessibilità ai lavoratori anziani, le partite IVA, i voucher, l'apprendistato, i contratti, le collaborazioni, insomma tutto quello che succederà nella riforma del mercato del lavoro. L'analisi forse più lucida la fa Enrico Marro oggi a pagina 9 del Corriere della Sera. Il titolo è "I paletti CGIL alla prova di un patto obbligato". Scrive Marro: sarà anche una forzatura, ma rende l'idea. Se non ci fosse la CGIL, l'accordo sulla riforma del lavoro si sarebbe già trovato, nel senso che le posizioni di Confindustria, delle altre associazioni imprenditoriali, di CISL, UIL, UGL, pur distanti, non sono inconciliabili. Ma la CGIL c'è, con tutto il suo peso, tutta la sua importanza, ed essendo la meno disponibile ad accettare modifiche all'articolo 18, rende più difficile raggiungere quell'accordo che da ieri è in qualche modo obbligato, perché così vuole il Presidente della Repubblica. Però a ben vedere proprio l'intervento di Napolitano potrebbe spingere o costringere la leader della CGIL, Camusso, ad ammorbidire un po' la sua linea, cosa che fino a ieri pomeriggio sembrava improbabile. Tanto è vero che il vertice di 2 ore della mattina tra lo stesso segretario della CGIL e Bonanni e Angeletti non era servito a trovare un'intesa. Vediamo allora questo nodo sull'articolo 18. Il governo Monti è determinato a cambiare l'articolo dello Statuto dei Lavoratori che risale al 1970 e che, secondo il Premier, è d'ostacolo agli investimenti dall'estero. Napolitano lo sostiene anche perché vuole che l'Italia rispetti gli impegni presi con l'Europa. Il ministro Elsa Fornero, d'intesa con Monti, ha illustrato la scorsa settimana una proposta ai sindacati che lascia il diritto al reintegro nel posto di lavoro solo su licenziamenti discriminatori. Su quelli invece per motivi economici ci sarebbe un equo indennizzo, mentre su quelli disciplinari deciderebbe il giudice tra reintegro e indennizzo. Questa proposta ha ricevuto anche il via libera politico in un vertice tra Monti e i segretari ABC, Alfano, Bersani e Casini, ma a questo punto le parti sociali, non gradendo questa sorta di commissariamento della trattativa in corso, si sono irrigidite tornando alle posizioni di partenza. Ecco, così scrive Marro, da qui si riparte e si è ripartiti da un paio di giorni e chissà se oggi arriverà questo atteso accordo e che tipo di accordo ci sarà. Certo, è una giornata intensa da questo punto di vista, ripeto, alle 8.30 il prevertice e poi dalle 15.30 la trattativa al tavolo vero e proprio. Intanto, mentre ci si interroga su questo, ci si interroga anche sullo stato della politica. Ormai non passa giorno senza che non ci sia l'indagato di turno. Questa volta in Regione Lombardia è toccato e tocca a Romano La Russa, assessore e tra l'altro fratello dell'ex ministro Ignazio La Russa. E ora sono 10, così inizia l'articolo Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, pagina 16. 10 consiglieri regionali della Lombardia nei guai con la giustizia dopo l'informazione di garanzia per violazione della legge sul finanziamento ai partiti recapitata ieri a Romano La Russa del Popolo della Libertà. assessore alla sicurezza e alla protezione civile, indagato perché è un service manager dell'azienda lombarda delle case popolari, che fino al 2009 è stato coordinatore milanese dell'UDC prima di trasmigrare nel Popolo della Libertà, ha pagato a suo favore dei santini e dei manifesti e degli incontri elettorali senza far figurare nel bilancio della sua società le relative fatture come contributi elettorali, per l'appunto. Dunque, finanziamento illecito ai partiti, questa è l'accusa, lui si difende, si tratta di una spesa di 5.000 euro di manifesti e santini. Sta di fatto che il Corriere della Sera racconta che al Pirellone, cioè sede della Regione Lombardia, la sensazione è quella del a chi tocca oggi, perché praticamente è così. Tra l'altro il Corriere mette la fotina dei 10, le foto dei 10 consiglieri per varie problematiche, indagati o insomma finiti con problemi nella giustizia. Il Fatto Quotidiano fa un corsivo nel quale il titolo è il governatore, cioè Formigoni, non vede e non sente, mette l'elenco appunto dei 10 indagati con Formigoni che si giustifica: la corruzione è ovunque, piuttosto gli ha suggerito Antonio Di Pietro si dimetta, ma Formigoni dice ma che? Romano La Russa fa parte della giunta, ma non è minimamente implicato per atti che riguardano il governo della regione. Io sono il garante degli atti dell'esecutivo. Se poi qualcuno ha commesso delle irregolarità amministrative nel corso di un'attività politica extra regionale, ne risponderà e ne darà spiegazioni. E invece dall'altra parte, andando a sud, c'è sempre la grana emiliano del Partito Democratico, il sindaco di Bari che non è indagato per quel che riguarda l'arresto di alcuni costruttori, De Gennaro, però una delle figlie dei De Gennaro era assessore di Michele Emiliano. Ora Libero fa sapere, c'è un'informativa delle Fiamme Gialle che dice i De Gennaro forse hanno finanziato il sindaco, spuntano anche case facili date per gli amici, insomma una vicenda che rischia di complicarsi sempre di più, tanto che c'è una proposta di Antonello Montante, da cui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico, imprenditore vice di Ivan Lobello e Confindustria Sicilia, che propone un bollino anticorruzione per i politici. Tra poco. Un bollino anticorruzione per i politici, in un'intervista al Corriere della Sera, è quello che propone Antonello Montante, responsabile per la legalità in Confindustria. E colui che già si è battuto per il bollino, per la legalità, per le imprese, dice Montante in questa intervista concessa a Felice Cavallaro: i partiti dovrebbero regolamentarsi, redigere un nuovo codice etico come quello applicato da Confindustria, dovrebbero farlo per convenienza, non è solo un problema morale, ma ne guadagnerebbe la politica a 360 gradi per una fidelizzazione dei giovani. Non sono un giustizialista, dice Montante. Forse per espellere dalla politica gli incriminati ci vuole una condanna, per esempio, in primo grado, ma occorre ritrovare una sensibilità capace di portare i partiti intorno a un progetto unico. E dunque questa idea di una sorta di bollino anticorruzione per la politica. Vedendo almeno le indagini di questi tempi, ma per carità sono indagati, non ci sono condanne. Insomma, questi bollini, si risparmierebbe un po' sui bollini di questi tempi. Comunque, noi, come detto, alle 8.20 avremo ospite il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, che tra l'altro ha fatto sapere farà parte con una delegazione dei funerali che ci saranno a Tolosa dopo la strage avvenuta ieri, quando un uomo ha fatto fuoco deliberatamente su, uccidendo 3 bambini, uccidendo anche un insegnante, un professore della scuola ebraica. È davvero il resoconto più incredibile è quello del Corriere della Sera. Inizia così il racconto di Stefano Montefiori, la cronaca che trovate a pagina 2. Nicole Iardeni ha visto l'orrore. Quell'uomo avanza con calma, racconta, col viso coperto dal casco da motociclista. Si muove in modo molto normale, senza nervosismi. Tiene la sua arma in mano, cammina nel cortile della scuola dopo aver cominciato a colpire fuori. afferra una bambina per i capelli, le mette la canna della pistola sulla testa e spara subito. Lei crolla e l'uomo riprende a camminare. Indescrivibile, non sembra reale. Mi ricorda i racconti di mia nonna, che ad Auschwitz vide neonati lanciati contro il muro dalle SS, il cranio frantumato. Devo vomitare. Alla signora Yardeni, responsabile della comunità ebraica del sud della Francia, hanno appena mostrato le immagini registrate dalla videocamera di sorveglianza all'interno della scuola. La bambina, che ha finito di vivere alle 8 di ieri nel cortile dove tante volte ha giocato, si chiamava Miriam Monsonego. Aveva 7 anni, è la figlia del direttore della scuola ebraica Ozar HaTorah di Tolosa. Qui l'assassino, che nei giorni scorsi aveva già ucciso 3 paracadutisti, è tornato in azione per compiere il più spaventoso dei suoi massacri. Chi è questa persona ricercata ora a Tolosa, ma in tutta la Francia? Avete sentito anche la descrizione molto molto dura e impietosa di come pare abbia agito con una freddezza impressionante. Si cerca negli ambienti neonazisti e si cerca, i più sospettati sono 3 paracadutisti. La storia è raccontata a pagina 5 del Corriere della Sera, sempre da Stefano Montefiori. C'è anche una foto emblematica di 3 paracadutisti francesi neonazisti. Sono 3 paracadutisti che sono immortalati mentre fanno il saluto nazista e avvolti in una bandiera con la svastica, che sono stati espulsi nel 2008 dopo che un loro commilitone di origine maghrebina li aveva denunciati. Queste 3 persone ora sono ricercate. E perché si pensa a loro? Perché nei giorni scorsi, domenica 11 marzo a Tolosa, un sergente paracadutista di origine marocchina è stato ammazzato in pieno giorno, e giovedì 15 marzo 3 paracadutisti che stavano prelevando soldi dal bancomat, 2 di origine maghrebina e il terzo di origine delle Antille, sono stati freddati sul colpo, e la stessa arma pare abbia colpito ieri. Dunque l'arma della strage è uguale a quella che ha ucciso 3 militari, anzi 4 militari, nei giorni scorsi a Tolosa. Si sta cercando dunque in questi ambienti. Vi segnalo tra l'altro il racconto in prima pagina di Repubblica di Marek Alter, scrittore, l'Europa antisemita. Quando accadono tragedie come quelle di Tolosa, mi chiedo, scrive Alter, se si possono ancora considerare gli ebrei come i capri espiatori della storia. Ebbene, la risposta è sì. Mi torna in mente quella barzelletta triste di 2 amici che si incontrano al bar e cominciano a parlare di crisi, disoccupazione, miseria. A un certo punto uno dice: è tutta colpa degli ebrei e dei ciclisti. E l'altro risponde: e perché mai dei ciclisti? Ora, in questi tempi di ristrettezze, sta crescendo in Francia la rabbia verso gli arabi e parallelamente aumenta l'antisemitismo. Così inizia l'articolo «Se l'Europa riscopre l'antisemitismo», Marek Alter su Repubblica. Di questo, ripeto, ne parleremo alle 8:20 con il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici. Ora il giornale radio.